Sì, prova, sì. Allora, se questa è la mia cosa, sì, provo, sì. Gulam Mammad, però non è che tanto... Ah, fa una specie di rimbombo.